a mare oggi. Ehi, al telefono, oggi c'è lo squillo. Ah, non l'avevo sentito. Beh, Massimo, grazie. Che cosa stai combinando, va? Mi fa bruci di raffisare dalle 5 prancegni e mi sono riparata giù dalla. Anzi, invece vada a riposare, vai tu a pranciare, da ti fa di re, a vacco ti rifà un po' di ciccia. Ha detto che entrava Giulio, mi sa che pure Giulio si era da l'asso bianco. Egli no, cosa devi fare? Cosa devi fare? Sì, ma ci ho fatto un bel bisolino, io buono, però alle 4 e 10. Hai se abbassa va. Scusate, era il telefono, eh. Ah tu. Bionda era o Bruna che sei stato telefonato? Bruna era, Bruna. Meglio così, visto dai, grazie. Grazie a Paidente, grazie. Allora, poco da baita faccio no che la volpe, Africa Baitenni. La sani mi ha detto, come ti vai per buccio così un bè? Andai per atturrà. E lui ha già da uno, ma tu mai mi magna. Atta, a chi cos'hai combinato? Scusa, sono andato a comprare la cosa all'Europa da un amico e gli ero ragionenni, non va creduto, no? Allora il pensamento, occhio e... A tu! Tia, dimmi tuo mare! Tu hai ragione, se l'ha detto così, il abbriato a chi fa poco troppo. Non sarà il pensamento, no? Così è, Giomari, sicuramente. Anche un poco malandrino, questo Graziano. Io pensavo che era piena di giacca, invece ancora pure, Non lo sai così, Giomari. Grazie, grazie. Siamo a razza di pubblicità che ti ha fatto. Allora, dillo a tutti, a tu, mi non vi credimi, la politica mi conosci, no, a tu? Amore, ti conosco. Mi ha tenuto ragione, avanti, dimmi come sto uscendo, dai. Che sto provando l'apparecchio e da tanto non lo accendevo, dai. 9:10, radio pulita, fa passaggio che l'ascolto bene, che ho alzato il volume. Perché per la televisione pure accesa, così che non pensa la televisione. Da voi mi date il controllo pure Antonio, avanti, grazie. Non la sento la televisione. Era male. A tu! Ehi, dimmi! Ma un po' arrestato sì, ci ha detto, dammi com'è la radio? È la radio, Giomari. Sì. Cosa mi sei... Grazie, lo devo dire Antonio, va. Ehi, non ha parlato dove è, Antonio, mi ha detto come c'è la radio, visto che è provenne Giomari, amico, è una radio, così. E allora, ma male ti arrivo anch'io? No, ti sento benissimo, fanno scala, sì. Non mi capisci a me, ragazzi, vedi, perché era graziarete come ti attento. E tu sei presente a chi sta Bruna, grazie. Da giovane, mi c'è invece come c'è noi, e lo vedi, mi sarà Bruna, e aveva pensato pure alla bionda. Alla bionda vi besta Antonio Pomponio. Antonio, ma strano, non la gente si manda, o se a bagnini a cosa in mare. È innamorato pazzo, per cui è impegnato questo periodo. Già lo credo, già lo so con i piatti nei biondi, se no si rappunti l'uncino. E allora, cazzo, e invece alle cattune o cazzo, li piatti di bruni, bobo. Basta tagliare su un altro. E di ciaccadino su capparello, arma e di nulla. Ah, tu. Dimmi, Giomare. Ma cos'è? Ma il computer si è mai detto? No, sto facendo una cosa. Comunque, una volta mi ha giubilato una sottomaro, ma una cosa, No, me lo dico. Già te lo dico la fare. Sì, vabbè. Siamo con la cosa amara. No. Una cosa, boh. Già te lo dico un giorno. Bene, meta. Ando una cosa grave, non per pensare tu. Bene, passa, tranquilla allora. Posso immaginare cosa può essere. Ma, capita, nelle mie famiglie. Sì, così è. E infatti, allora. Grazie, a beso hai. Ehi, adesso non li chiedo, vai, Dani. Ehi, non sai come se si capì qui. La gente si ruoli e ti faccio con ciuccio. Che non avevamo mai detto entrare. Cazzo, ma che ci due pezzi erano? No, due giovanotti in cravatta, di piccini, mariani americani, mariani. Anche, ma la giombrera, per via. No, poi ti tirate di gusto, ma la zucchi. Vedo un poco, a se ne fai di muso travagliente, grazie. Ma piccati, mi perse, la giucca la mia è occupata. Cos'è che andate altrui. A tu. Quelli a che cosa? A travagli di fine, Antonio, grazie. Altra l'altro, ma Giammari! Oh! E te vuole, te? Oh, era Menibuti. Ah, e chi c'è un altro, grazie, Chi ci vuoi, Andre, come radio? Fa il passaggio. 1, 2, 3, prova, avanti. Sta uscendo bene, come radio è pulita. E che macca è? MS. Eia, la macca di un pacchetto di sigaretti. Ah, la macca delle sigarette, che si fumo io, MS. Eia, infatti. Dai, marocchini l'ha giubilato. Ma se non ne vende nelle marocchini. Ragazzi, lui si lo vende, che è? Ma è che c'è la coppa, non importa poco, guarda chi resta la borsa, gatta. Gatta, non più bello di rubigli, gatta. Pochi soldi e roba buona. Ah, sì, non ne ho mai visto, solo qualche radiolina di musica, va, chi sono, ridurci. Radio così non ne ha. Perché c'era dentro la borsa grande che c'è sotto il banchetto, capito? Non mica li può mettere esposizione, no? La lo sai che non lo può fare. Allora sotto, adesso io lo dico, l'ho detto a te, ma non dire niente a nessuno, tanto non ci sente nessuno. Ehi, a dirla a tutti, vai, non ne prendi chissà, vai, cosa si dice? Non ne avete mai visto, mai inteso. Ti avevi mandato a chi si russi, chi si bugnano da punti, chi si fuggono alla strada dei due mari, però quei russi. E mi avevano detto che non conviene perché costano molto, già molto di là, e non che l'altro deve venire. Dunque non arrivano in barghissimo. Ai russi, quelli che vendono carne da pesca, roba antica russa, cosa militare russi, a chi ci sono questi segni? E non ne vende la chiesa che pur il paese solo costano un bel, dunque arrivano le nocche, aumentano il prezzo e tutto, e dunque non li prendo. Ma è, dai, non tutti, anche da cui c'hanno la rega da ogni lupo, lo state in coccia gruppo, e la regani, e così è che c'è cosa, burro, capito? E aveva domandato pure la cinese, ma le dico la stessa cosa, che cosa di gruppo? Per forza chi è di là, se gente conosci, gente tranquilla, capito? A te non ti conosci, così come non ti ridati, no, capito? Se non è gente conosci, non li dati, capito? E come ha detto Balacchi? Ehi, che sono buffonete, grazie, ma insomma, cazzo. Mi pare strano, cazzo. Chi ci fa le radioline di chi si minoreggi, sveglie, o ridursi. E vabbè, chi ci rimedio sapere, ma un po' è di casa, che l'accendino. Ah, se no poi ce l'ha occupato pure una zuppa. Chi è ancora appiccata l'armadio, come la giù fai brucia. Pure la giubilato tu. Un paio di zuzzi, già che di zuzzi ha giubilato, ma non mi naggio mai buccia, quale lì va piccata la te. Se c'è voce la biglia, una cosa, la buona non me ne bongo, pare che mi piace, invece la buona non me ne bongo. Ma tanta roba paggio, ogni tanto regale giù qualche cosa. Pablo, che cosa vuoi fare? Ah tu! Antonio mi sa, l'ha squillato il telefono, la niente l'ha chiamato e si è sparato. A me mi pare che se c'è un bene andando all'appuntamento, va, parla Bruna, vera tu? Si chiede che bomba. Ah, si può c'è, che bomba l'ha preso, parlo di culo. E tu ci vissi alla 25, io ti racconto la roba. Uia! Così è, grazie, così è. E allora? Arrivani! Abbiamo avuto un cespugliatore in chibi, un divisore in cassonetti, no? Che ci mandano la borenda a mai dentro, mi manca la candela! Però va tutto tranquillo, però di chi si minori, E a dire la madre compare giù la candela e lo buro per questi passi. Ma si ha provato, e cosa mai il magazzino non bravo con una candela minorita? La cano una candela piccola ci vuole. E la metti, può fare un po' di benzina, però prima guarda se è pulito, no? Se la cordicella se funziona. Ho smontato il carburatore, l'ho pulito un po' con l'aria e l'ho ripiazzato, adesso ci vuole la miscela, capito? La miscela è la candela, la miscela io ce l'ho, qua. La candela mia macchina, che candela piccola non ne ho, siccome questi cespugliatori hanno le candele piccole, capito? Che in campagna mi piace un montone, ma è che non finisce, allora devo fare in campagna, andò varo e... E lo provi in campagna così. Mi manca solo lo, come si chiama, lo cosa va per il disco, capito? C'è solo una rondella, i chibi è rutato, mi manca per mantenere il disco, capito? Quindi mi basta fare un disco e dovrebbe funzionare, se il motore cammina. Ma tu provate a tirare la cordicella, a gira. Sì che gira la cordicella, a voi a gira. Se non credo che gira. Gira benissimo, capito? Solo che non avete candela, non puoi manco provare se esce corrente, se non esce corrente. Anzi, mi pare che provo una candela di macchina per dirsi... Sì, quella cosa a scintilla. Beh, vicino a casa tua, io vi lavo di tutti, fare, in questo marciapiede, fai che tu vi racconta dalla erba. Andi chi vi prendi il burro di candele, chi si burro del cespugliatore, penso che sia aperto. Sì, non mi trovo col vuoto, va a parco, no, ci mandare la baizzetta. Capito? La baizzetta è... per cui, ma se... Se poi ancora lo fermo da bare sul tempo pure. È tutto, che manca solo che si la giusto, un coso va a mantenere un disco che manca. Chi sono rondelle, che vi so. mi pare che ci sono due rondelle e un dato sinistro per. Però un dato sinistro non fa un pare con le rondelle, l'altro è l'attacco. Però le due rondelle e un dato non mi manca. Ah va, vedremo prima, si per corrente e si rimuove la miscela e da voi vediamo poi se passi o passi, capito? Se passi, capi lo bulu per, c'è già chi se pare buono. Basta provarlo già a vedere se funziona, cos'è un 26? È un 26 da passi, è minore infatti, è un 26. Ma, allora, vedi, allora dai fare la campagna, se fa la campagna, è il numero di campagna, capito? Infatti io faccio tutto, e per cui lo posso provare in campagna, no, che l'ha pulito il carburatore, allora, l'ha pulito, non c'è il battuglio che l'ha pulito, mi sono commisticato di via Montani e pulirlo, mi sento di questa cosa, tretto, capito? Prima che volesse la benzina, ma c'è un attimo questi due culloni e lo smonto. E lo pulisci, lo guarda il carbo, il salvatoio, le fanno un po' di benzina, le sciucchi, non ci avvicinano i residui, il vento. Ma non sarà il rancido e là le ha rombate e non le girate le bestie che vi manca. Era una pa' tipica, bella di cassonette, la mondezza. E ha già provato a dire sì. Ah, giù c'è la cortisce, la gira. Sapete, allora tagli più buoni la miscela. Vedi, si parte, se non parte. Prima voleva vedersi per la corrente. Poi si vede per la corrente, la si buona con la miscela, vedi un po' così, riesce a fare un bacino, vediamo un po', va. Il filtro lo faccio con la spugnetta pulita, tutto pulito, tutto quarto, no, fino a che ce l'ho fino a spugnetta fa un pezzo della rifetta dell'aria, va, faccia spugnetta, non fino a, forse vi manca la spugnetta, ma costa poco una spugnetta un po' di fila, dici fini fini e si buoni, vado sicuro, capito? Se funziona la spugnetta avevo, io la sai che la giuburito l'ho pulita, la spugnetta gliel'ho girata dall'altro verso, così così ma pure dall'altra, l'altra parte era più nuova. Vabbè, no, ma non c'è niente, a provarla, a vedere come sta, non sta l'altra, capito? Si ha da per il corporeggio che ci dato. Sicché ho preso pure lo dischetto per pulire il palo. E sicché sempre in pace, e se non lo faccio cosa riposo? E se torna la pa. No, ma se vuoi rubare i pizzi, serve sempre per i pizzi, solo che tu 26 non ne hai, io vi lascio il 26. Magari i pizzi sono buoni, qualcuno lì è già arancione. Un colore in pari è bianco, no, è bianco crema, è bianco crema oscura rimane, dai, non è bianco bianco, crema oscura, dai. Ah, beh, mi pare che su che vera un catalogo di il legno, chi su, mi sembra quello. Ma è roba da un bel, chi c'è roba, c'è già con. Mi faccio parlare di dire, dici, non girarmi più, già si vede, capi. È in buone condizioni, non tu becco, una voce che il motore cammina, gira bene, dici, adesso bisogna provarlo, capi? Bisogna provarlo. Tu male quando fare campagna lo provi, sai, vivo. Ti se lo fare lo provi. Tu andato a arrestare un spogliatore, non vi sei andato? Sì, tu me l'hai ritirata, ma per gli altri trattati in quello. Là, sulla gizia di non accusarne, ne manco parole vogliono mattesse, non mi interessa. Che ti dici su di non l'ha d'accordo, vuol dire che lui ha di attorno al gentilo a consarlo. E allora, ma che ci vive non l'ha d'accordo? L'ha detto, vabbè, a me non mi interessa nulla. Tu, così, arregami nel ruolo, ci metti il busto romatto, non ti preoccupato. Papà gli altri mi ha regolato, ha regolato, infatti ci devo passare, non ci sono passato, gli animali tra una visita e l'altra, ne ho guinta la una, andando a zia, capo, basso, che cagli da dentro. E non privassando, non privassando, certo, chi si sono tratta la pizzi, basta che si è rimontato. E la misura di Baffizi, ma non riesce a acciappare, e non l'abbiamo avuto, cosa dati? E si imbaccare così. No, io per aiuto mi dai, non mi devo venire a marco, non mi interessa, ma dici sicuramente, lui ha rimedinato, sai, le sue giubbe a marco, e non l'ha già fatto malissimo, anche intorno al sentiero, sì, intorno al sentiero mi occupo parecchio dal sentiero, bisogna intendere cosa si dice, comunque tu non accusare pure di signor Arrigano, che mi rurai come te, non ti preoccupato. Cosa l'ho fatta di qui, ora nuovo 26, che sarà bricco io, che è, che l'ho fatta di qui, ora, qui, la macchina roba nuova e noi ci accontenti che c'è il sasso, capito? Uno bisogna avere uno di riserva sempre, capito? Io l'aggio due, perché un'altra rimane, ne l'abbiamo trattato tutti e due, che ne abbiamo tagliato un diviso all'aranzi, e qui non l'ha dimostrato sappato, l'ha sbagliato lei, sbagliato i voci, mi zappo che sanno, lascio uscire, lascio riposare un po' con dal re. L'abbiamo trattato in una carta, il bombosso, al primo agosto sono partiti, grazie a tutti e due. Pariamo in guerra, un rumore, non finiva più. Beh, c'è tanto cose, è logico di baciare un primo colpo. Adesso che mi dicono ad assare Eva. E adesso mi dicono ad assare il buio, là. Ehi, frecca, frecca, gatta, va, io non ne so, non ne dipende, va frecca a me. Però va, piace, va frecca, va, ci può c'è frigorifero da oggi, perché anche per troppo caccia, allora, bisogna bere roba fresca, va. Aspetta che attacco lo Zodiac. Allora attacco il buono Zodiac, dai. Ebbene, grazie. Ma tu sei bruciato. Grazie. Ma Mari. Ma non mi sei? No, riattacco lì, noi ti lascia sentito basso basso. Aspetta, lo riattacco. Ma cosa c'è lo Zodiac? No. Ho cambiato un'altra parecchia, adesso ho cambiato, capito? Ma io non ti sentivo, Infatti ho riprovato a chiedere l'altro, ma non ti sentivo ugualmente. Prova a riattaccarlo l'altro, dai. Aspetta. Che fai il passaggio? Vai. Cos'è? Avessi. E io non ti sento, come non ti sento? Ebbene pure. Ma io non ti sentivo, allora. Ma non ne ho attaccato un altro, grazie, eh? Lo Zodiac è dentro, dai. Che è quell'antenino il Zodiac, Ah, e come sto uscendo? Ah, sta uscendo bene, a Puglia sta uscendo bene. Andava bene, dici, non rintena Gio Maria. Cosa sarà attaccato? Ti senti un po' basso a basso. E adesso bene mi senti? Adesso sì. Ok, vedo un po', evidentemente ancora la fredda, la fusione, adesso l'ho messo un po' di calore sotto e già sta uscendo. Aspetta, aspetta che attacco l'altro. Sull'altro ti sento più bene, aspetta, eh. Eia! E adesso bene mi sì. Adesso ha cambiato musica, fa un passaggio più lungo. Ok, uno, due, tre, prova, fatti com'è la radio adesso. Adesso c'è bella squillante, chi c'è la mucca? E questo qual è? Questo è quello tutto colorato. Quello che c'è di fronte nella camera. È l'ultimo che ho preso, capito? L'S9 è questo. Ah, già si sente bene, sento anche il televisore a sottofondo. Infatti questo era quello, tutta la spaccatura. Perché sono con il microfono applicato però, eh. Aspetta, eh. E adesso com'è? Più forte il tono della voce, già andava. Allora è meglio così, dai. Meno forte, già va bene, dai. Tutto va bene. Pure, se no è sempre fermo, la cosa ferma si guasta subito, c'è poco da fare. E non accorgi più quando si passa, riesci. Dai, si passa, la bocca la passi, non finirà pure mai, qua la batte, ti ricuvi, boh. La trovate va, dai, un bel, dai, cosa, dai, se si passa, dai, preoccupato, un sacco. Ti fate proprio caso, no, io la rinuncerò in montagna e pulito con il suolo di mamma, ma gli ho tirato e buh. C'ho solo il suolo, quelli dei giri. No, che peccato, ma era giusto. Qui c'è la tenda abbassata, dunque il sole è già passa il caldo, però già c'è l'ombra con le zanzariere aperte e l'aria già sta girando. Più ha già visto quello che dà su macchone che aveva busto in fondo e l'aria già gira. E mi sa che mi dico un pannello da sotto, in occhi, dalla vetrata, dice 4 stelle, li pongo la rettina alla zanzariera e li pongo la zanzariera e fa tutto il simbolo da capisco, non c'è traviaria su da sotto, un pannello già basta. Controllare i veicoli mentre bisogna attaccarli, capito? ci fa a fare il vapore, a cosa non vedrà a me, grazie, come sta ci fatta i vacconi. E i vacconi si sono in ogni roba, mi mancano solo come ti chiama, pure il garrazzino di quei due sport scorribili, pure io ti faccio i gangarieri, puoi immaginare, mi mancano solo la sala. Padre, così questa obiettività, capito? Se riesci a ciapparmi di chi si in due pezzi mi alza e farà per attaccarli alla guida all'esterno, in modo che poi si farà pure la serrata quando c'è l'occasione di abbassarla, capito? E bisogna controllare bene, capito? Chi si viso, per di solito ogni tipo, per di solito. Allora, quella che ti sto dicendo io, che c'è quel rotolino, un rotolino è adesivo, tu apri i vacconi e l'adesivo lo attacchi tutto in giro al telaio. Ah, mi segui? Lo attacchi adesivo, non ne vuoi la pellicola di bambino, con lo dito piano piano, l'incacca e si attacca. Una volta che l'hai attaccata, apri la tandagliera che è più manna. L'attacchi prima la perra, poi sopra la bella, ti ripeti con la mano e l'attacchi dall'altra parte e fai l'apparente vantaggioso. E ti rimane tutto questo con la striscia in più, pigli un taglierino e la tagli due diti prima di arrivare alla fine, un preso. Che attacchi vanno bene così, come l'ho messa io in questa finestra che ti ho detto, io ce l'ho così. Dice la pura va a bambi che si pianti o ha pure iso da ra. Quando devo uscire la attacco, però la pellicola dove attacca rimane attaccata. La attacco, la sollevo, la punto sessioni, la che ci volete rimane fermo. Brinco, apro, da vedo la brica, entro, la darò baciare, ma solo di delle assarra. Da tempo, i voli gli si. A chi gli ha fatto il basso misura con questo ombre? Oppure i giochi di chi poli? E la guida della volgibile, però la volgibile non si abbassa tutta. A meno che non abbia i disi fissati nel telaio all'interno della guida. E a chi si va a correre, so come ti si erano in casa di mezz'oretta. Dunque, all'interno lo puoi mettere da telaio a telaio, quelle che apri, che le allunghi con le mani, regolate. E se no puoi pure chissà, mi pare la più alta era 70 di altezza, 70 centimetri. E allunga è sensibile, l'allunghi viso per scritto. Arriva tardi a baitarsi un po' per pigliare la misura, e infatti lì si deve attaccare all'esterno, non all'interno, all'interno non si può attaccare, chiamavano un po' il salario dei vacconi numeri, per cui nel mio sport finestre c'è bisogno, però la cosa è attaccarla all'esterno, capito, a parchi pura. A diretta la guida della serrata, capisci? Lì si deve attaccare. E non è che funziona a fare il travaglio, però bisogna capire come ti vale. Più basso la via, mi fai vedere come te l'hai fatto. Non ti scherzi, la ciappo che va da di me e piglio isce, capito? Se la ciappo la misura isce. Io mi metto che veda per forza finestra e finestra. Io l'ho presa per finestra, però era più manna, gli sa misura la giudaglia da lì. C'è l'adesivo, però l'ho incollato tutto in giro al telaio dove chiudi la finestra, al telaio di ruacco. Poi ho preso la retina e col dito l'ho appiccicata così. Quel materiale per attaccare le mantovane dei dirigenti di Trento Casa, Milanza, se ci vuoi fare la mantovana, vendini chissà fascetta, ti fa di cipa, chissà si incolla una e l'altra vi l'attacchi con i mani, da qui quando la devi buini, la digli e nisci per la mantovana, cupri, e la radeghi che era matte sicuro. la devo vedere qui, paracci, come te, come tu è. Inutile a pigliarlo, devo sapere come ti si piazza, a chi ti avvenga a vedere come ti sei piazzata tu. Mi la fai vedere così che a voi è fatto per rilassare con la misura e si sveglia da me, ripieni il mio, fa chi. Quando mi sono in cambiere, gli mi ritiro, la notte con c'è la tabella negli anni, per cui l'aria passa e si circoleggia vecchia più. Se no, perché volte si muore, lo cagli, no? Abbacco la bestia, non puoi dormire, capito? Tocca a colui, con la bastella serrata, l'aria non passa, non si che invece con la tateriera passa, capito? E io poi passando alla arena di tessuto morbido, la poi lavavo con la battrice, con questo. Oh, è bianca, cioè bianca e grigia, è una sbagliata bianca, ma di questo si comincia a attaccarla. Se io sentito la bocca data, me ne è rimasto un bel pezzo anche, solo che sta già arrivato, mi pulisce qui magari, se mi si faccia una settimana. Ripongo un poco di colla, le ci faccia e vi l'attacco, comprendi? Dice con la trasparente e la posso attaccare, hai capito? E la paura, ce l'ho dall'anno scorso, ce l'ho lì, con la finestra che ti ho fatto vedere, chi tu ha fatto? Poi ci siete andando a me. Ah, prima li prego, da voi vediamo un po', ripeto, dai prego, come te che c'è cosa, allora, se va bene, mi attiro pure, capito, faccio i buoni, perché ci mancano solo i chili, quelle due porte e finestre che fa girare la sala, ecco, infatti io che mi so, in tutti i luoghi mi so, io mi accorgo, io lo darratino, così la mi so, capito, ci mancano solo questi due porte e finestre, capito? Ehi, è una cazzata attaccarla, che tu apri la cosa, pensi che c'è un rotolino adesivo, l'attacchi tutto in giro al rotolaio, e cosa ti posso dire, 2 mm spugnoso, l'attacchi con un dito giù, da poi quindi la tannarena, la voglia di basso con un dito, fai manuale sempre fare, ne rimane attaccata. Quando tu devi dingi, cosa fai? La tiri la tannarena e l'attacchi a trista basi, no, ma te si unì attaccata l'altra. Che tendi? Dopo che hai finito la moglie la chitarra, la bacio, il basso con un dito è attaccata. È semplicissima. Ah, grazie, devo lasciarti il taglio, sai, ci sentiamo magari dopo, ok? Ehi, vabbè, ho affittato.